Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Pronti per dare il via alla musica e potremmo dire maestro stacca il tempo, perché oggi qui al Soundcheck di Radio 24, appuntamento numero 214, ospitiamo nel Groove Master Studio un mio amico, un eccellente maestro, direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore, chi più ne ha più ne metta, e quindi do il benvenuto in questa stanza di musica al maestro Bruno Santori. Benvenuto Bruno. Grazie Gigi. Allora io intanto però chiedo al mio comunicatore preferito Francesco Tromba di raccontare agli amici di Radio 24 la figura professionale di Bruno Santori. Ti sei preparato? Sì, sono preparatissimo. E adesso però ti dovresti anche inginocchiare, perché non è, forse non hai ancora, sì, capito chi hai di fronte. Qui, no, mettiti qui vicino. Sì, ecco, sì. Vai, pronto? No, ho capito perché ho studiato e lo ammiro tantissimo. Eh beh, vedi, è un ragazzo secondo preparato. Me hai studiato un altro profilo. Allora presentiamo il maestro Bruno Santori, vai. Beh, come hai già detto tu, è direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore, è stato direttore musicale del Festival di Sanremo nel 2009, una delle edizioni più sperimentali, non so se ricordate l'ingresso... Mi ricorderò questa parola durante la nostra intervista, sperimentale. Sì. C'è da aver paura di questa cosa, però vabbè. Accettiamola così. È anche direttore stabile dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Secondo me il suo più grande merito è stato quello di riuscire a portare nelle sale da concerto di musica classica musica un po' più come esempio il rock o la musica leggera, e anche l'operazione opposta, ovvero portare gli appassionati di rock ad appassionarsi di musica classica. Secondo me è uno dei più grandi meriti in assoluto. Ecco, ti è piaciuta magari questa presentazione? Fantastico. Grazie Francesco, poi ci scambiamo anche gli indirizzi. Bene. Ti mando anche qualcosa a Natale. Ma la cosa che mi piace di più è proprio quella di, che hai detto poco fa, è quella di poter eventualmente portare chi non conosce la classica ad ascoltarla con più, come posso dire, amicizia, friendly. Questa è la cosa che mi piace di più. Mi è capitata questa cosa diverse volte, non so se è il caso che lo dica già da ora, quando e come, però non so, questo me lo dirai tu, Gigi. Mi scandisci tu i tempi. Che... Certamente, è la mia specialità questa. Ecco, perfetto. Senti, però per capire proprio il tuo carattere come musicista, come direttore d'orchestra, io vorrei fare un salto proprio nella tua infanzia, perché se hai scelto di fare musica, in qualche modo... E questo morbo, questo virus ti è stato tramandato da qualcuno? Da mio padre. Da tuo padre, perché papà è un musicista, è stato un musicista. Allora, più che musicista, lui è stato un grande appassionato di musica, suonava la fisarmonica e anche un po' il pianoforte. E tanto che io le mani sul pianoforte ho iniziato a metterle a 4 anni. Io non ricordo di non suonare il pianoforte, cioè non ho memoria di quando ancora non lo suonassi. Non che poi abbia imparato mai così bene la musica, però comunque ho iniziato molto presto e c'è molto ancora da fare. Ma qual era la musica che si ascoltava a casa, in famiglia? Ma allora, mio padre, essendo fisarmonicista, puoi immaginarti quale musica lui suonasse. Infatti spesso voleva che lo accompagnassi con i suoi valzer, i suoi tanghi, però lui amava la musica in tutti i modi e quindi già da... giovanissimo ho iniziato ad avere un severo importante insegnante di pianoforte che mi ha iniziato alla musica classica, ovviamente. Ma io ero così un po' incuriosito anche di tutta quella musica che ascoltavo in radio, che sentivo in televisione, e ho avuto la fortuna appunto di essere sostenuto da mio padre, e già a 8 anni feci il mio primo disco come arrangiatore, anche addirittura con la Bentley Eldorado, addirittura prima, sì, di Stevie Wonder, come lì del Stevie Wonder. Vabbè, non facciamo questi paragoni. Adesso veramente siamo, Comunque, vabbè, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Esatto. No, allora facciamo una cosa, facciamo una pausa, no? Perché questo, tu sai, una rubrica. Rubrica è sempre un termine antico per te. Sì, troppo antico. Va bene, in questo programma di musica. Cruciverba. In questo programma di musica noi ascoltiamo bella musica. Allora, siccome siamo ancora emozionati per la scomparsa di Pino Daniele e tu hai collaborato con lui, e poi entreremo proprio in argomento e ci parlerai della tua esperienza con Pino, direi di ascoltare subito questa versione meravigliosa di Quando, brano fra i più belli, fra le composizioni scritte da Pino Daniele, in una versione dal vivo, credo, con l'orchestra in Piazza del Duomo. Esatto, Piazza del Duomo, e l'orchestra naturalmente era diretta da Bruno Santori, l'arrangiamento poi della parte orchestrale l'avevi fatto tu. Eccolo qui, Pino Daniele con l'orchestra diretta da Bruno Santori qui al Soundcheck. Questa strana pazzia è un paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Beh, mi sembrava doveroso aprire anche questo appuntamento del nostro Soundcheck con Quando di Pino Daniele, anche perché quando abbiamo dedicato la puntata a Pino Daniele e Lucio Dalla, purtroppo per motivi di palinsesto proprio il brano Quando di Pino Daniele in qualche modo è stato tagliato e qualcuno se l'è presa, e anch'io. E quindi oggi abbiamo recuperato con questa versione live, potremmo dire inedita, di Quando di Pino Daniele con l'orchestrazione creata dal maestro Bruno Santori, che è nostro ospite qui al Soundcheck. Allora, un breve ricordo di Pino Daniele, che tipo di esperienza è stata quella vissuta a Piazza del Duomo con lui? Beh, ovviamente emozionante, come ogni volta che posso collaborare con questi grandi musicisti e artisti. Mi ricordo che ad un certo punto noi nella prova facemmo una scaletta di quei tre brani, e poi mi fu chiesto da Radio Italia di cambiare la scaletta. E a lui questo non piacque. E mi fermò durante l'esecuzione, mi disse: no, rifacciamo la scaletta come all'inizio, davanti a 250.000 persone in diretta. E devo dire che è stato un momento abbastanza, come posso dire, è complicato da vivere, ma ho anche apprezzato la sua coerenza. Senti, quale pensi sia stato musicalmente parlando il merito di Pino, con tutta la musica, le composizioni che ha scritto, per l'evoluzione della canzone italiana? Beh, indubbio che lui abbia portato il jazz al facile ascolto, in qualche modo. Lui è sicuramente è più che un artista pop, è stato un jazzista. Un jazzista, un bluesman, sì. La cosa che oltretutto poi mi porta, cioè in qualche modo, voglio dire, mi dà la possibilità, questa domanda che mi fai, di poter dire che io da tempo considero il jazz il pop del futuro. La musica pop attualmente, secondo me, soffre un po' di pochezza di contenuti, e il jazz sicuramente allarga di molto. Non per nulla, voglio dire, ultimamente nasce Mario Biondi, che noi consideriamo un artista pop, e mai così sbagliato fu considerarlo tale. Sì, è quello che sta succedendo da un po' di tempo. Lo scambio di ruoli e di personalità artistiche. Ci sono oggi le pop star che cantano il jazz, forse perché non hanno più nulla da dire su quel versante, ma anche artisti di jazz che si cimentano con composizioni che vengono dalla canzone popolare internazionale per avere magari risultati vantaggiosi da un punto di vista discografico. E questa è l'operazione che ha fatto infatti ultimamente anche la bravissima Diana Krall, pianista, cantante che viene dal jazz, che ha realizzato un album intitolato come, Francesco Tromba? E Wallflower, come la composizione di Bob Dylan, e il brano che ascoltiamo da questo album appena pubblicato e già in vetta a tutte le classifiche discografiche in giro per il mondo è I Can Tell You Why, brano che sicuramente conosci perché la versione degli Eagles allora ebbe grandissimo successo. Diana Krall al Soundcheck. Look at us, baby, up all night, tearing our love apart. Aren't we the same two people who live through years? Il suono della musica. Il maestro Bruno Santori è ospite del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Il nostro Francesco Tromba ha diversi quesiti per lui. Che cosa vuoi chiedere al nostro maestro? Sì, allora, ho letto delle operazioni, diciamo, di portare artisti di musica leggera a suonare con l'orchestra. Sì. Ovviamente, diciamo, io conosco bene la vostra capacità, sia sua che dell'orchestra, di adattarsi a qualsiasi tipo di situazione, ma io volevo chiederle com'è stato difficile, se è stato difficile far adattare personaggi che magari non hanno comunque avuto una formazione classica vera e propria a rapportarsi con un'orchestra, con una grande orchestra. Ecco, questa qui è una domanda intelligentissima. Nel senso che ovviamente l'orchestra è uno strumento che per chi è musicista pop è un po' sconosciuto, e quindi ogni volta che questi musicisti si trovano di fronte all'orchestra un po' subiscono un po' subiscono il fascino, ma anche un po' così il timore reverenziale verso questo apparato che non è per loro così abituale. Quindi le reazioni sono diverse e anche fra le più distanti fra loro. C'è chi si in qualche modo pone in una posizione assoluta dove necessita di quei requisiti di suono che abitualmente lui conosce. C'è chi invece si adatta, un po' meno devo dire la verità, si adatta a questa esperienza di suono sinfonico. Il musicista pop italiano in qualche modo, ma lo dico veramente con grande, come posso dire, simpatia e affetto, ha bisogno di ritrovare le sue certezze, e quindi se gliele togli diventa poi un problema gestire la sua tranquillità. Questo può essere a volte lo scoglio più difficile, no? Da superare. Ma lì ovviamente serve anche una certa dose di psicologia e quindi di affabilità per riuscire ad entrare in contatto, sciogliere un attimo queste tensioni. Di solito poi alla fine sono tutti molto felici e soddisfatti di questa esperienza. Quanto sono felici invece i professori d'orchestra di ritrovarsi a suonare un repertorio che magari non è abituale anche per loro, perché insomma ci sono anche lì delle difficoltà. Tu dirigi ancora la Omnia Orchestra, che è un'orchestra che è stata scelta e selezionata proprio in base a queste qualità, cioè musicisti versatili con grande preparazione che possono cimentarsi nel repertorio classico sinfonico a quello del rock progressive. Certo. Io purtroppo la Omnia ho dovuto abbandonarla 6 anni fa, quando ho preso la direzione artistica e stabile della Sinfonica di Sanremo, anche per una questione di coerenza. E conto di tornare a fare qualcosa con questa grande orchestra, e quella è un'orchestra che è nata proprio per affrontare un po' tutti i generi, e quindi devo dire che era più semplice, anche se comunque l'Orchestra Sinfonica di Sanremo per alcuni aspetti è abituata, essendo abituata al festival, ovviamente è più, come posso dire, è più facile portarla su quel suono che comunque ormai conosce nelle orecchie. Allora, a proposito di questo, ti voglio far ascoltare un pianista americano della nuova generazione che fa parte anche di una band ormai affermata che si chiama Snorky Puppy. Hanno anche vinto un Grammy Award nella passata edizione. Tra l'altro approfitto per dire che domani, mio caro Francesco, dedicheremo alla edizione 2015 dei Grammy Award l'intera puntata di domani pomeriggio alle 15:30, quindi parleremo del Grammy Award. Ebbene, Bill Lawrence, questo è il nome di questo ragazzo, che suona anche con Snorky Puppy, album nuovissimo per lui intitolato Flint, fa proprio questo, viene dalla musica classica, un buon pianista di jazz, versatile ma con le orecchie molto aperte ai suoni di oggi. Quindi qui c'è l'orchestra, sentirai i corni inglesi, il brano parte, questo Money in the Desert, proprio come quasi una scena di caccia. Eccolo qui, Bill Lawrence al Soundcheck di Radio 24. Si intitola Flint, questo album molto interessante pubblicato dal pianista Bill Lawrence con la collaborazione di Michael League, il leader degli Snarky Puppy. Il brano era Money in the Desert. Tanto per allacciarci al discorso che facevamo col nostro ospite, il maestro Bruno Santori, di quanto sia importante oggi per un musicista pop, rock, jazz o di estrazione classica avere un'apertura mentale un'ampia notevole. Conoscenza, un'ampia conoscenza. Quanto è importante? Ma è importante, secondo me, in modo fondamentale. Tanto che, appunto, stavamo dialogando prima, così semplicemente io e te, del fatto che quando io fui direttore musicale del Festival di Bonolis del 2009, mi trovai a lavorare con i concetti della musica classica, passando da Tchaikovsky a Mozart, ad altri grandi compositori della musica classica, al jazz, perché con Kevin Spacey mi capitò di fare Fly Me to the Moon, quindi è un brano che ha sicuramente connotazioni estetiche e jazzistiche, se vogliamo, ovviamente orchestrali. Come cantò il brano Kevin Spacey? Molto bene. Molto hai visto? Bene. Questa grande, è la scuola americana, scuola del musical. Grande professionista. Beh. Come mi capitò, peraltro, di arrangiare un medley per Bart Bacharach con lui al pianoforte, quindi non ti dico lo spavento la sera prima per la mattina dopo in prova. E lì mi sono veramente reso conto che per un arrangiatore è fondamentale conoscere il più ampio spettro di strutture musicali e di logiche di armonia, no? Perché voglio dire, i concetti dell'armonia della musica classica, che poi si dice classica, non si capisce bene se si sta parlando di Scarlatti o di Stravinsky, quindi anche nella classica dovremmo fare dei distinguo, ma non li facciamo adesso. E chiaramente anche nel jazz, che noi chiamiamo jazz, invece tu distingui momenti, c'è un mondo, territorialità. Troppa musica arriva dal jazz, esatto, ancora. Ma oggi è fondamentale per un direttore d'orchestra che sia arrangiatore, che faccia l'arrangiatore, è fondamentale conoscere tutta la musica possibile che lui riesce a conoscere. E a me è capitato anche di produrre la musica dance nella mia vita, quindi voglio dire, ho suonato funky, il rock, il pop, il jazz, la classica e la musica barocca. Bisogna conoscere il più possibile. Ma una delle cose che ti piace di più è proprio quella di creare un ponte, e in questo caso diamo anche una dimostrazione: il ponte è proprio fra una rock band italiana importante come la premiata Forneria Marconi, quindi la PFM, in un concerto, credo dal vivo, questa versione dell'adagietto, ovvero il quarto movimento della quinta sinfonia di Mozart. Allora, questo l'abbiamo realizzato in studio, ma è stato preceduto da un tour dove siamo andati persino a Tokyo, e quindi arrivavamo da questa grande esperienza live, partendo dagli Arcimboldi con l'Orchestra della Scala, finendo appunto a Tokyo. Allora, la versione originale dura 8 minuti e 21 secondi, purtroppo non abbiamo tutto questo tempo a disposizione, ma già in sottofondo si sente questa bellissima chitarra. E quindi chi è il chitarrista qui, te lo ricordi il nome? Beh, del credo maestro? Si chiami Franco Mussida, no? Hai capito? Allora, eccola qui, Mozart per la PFM, gli arrangiamenti e l'orchestrazione è realizzata dal maestro Bruno Santori. Attenzione, però, insieme alla PFM abbiamo lavorato insieme. Soundcheck. Il suono della musica. Allora noi vi facciamo ascoltare una cosa che ci rappresenta, perché negli anni 70 era un po' la nostra bandiera. Il gioco è questo. Io faccio patapam, patapam, patapam, pa. Ok? Proviamo, patapam, patapam, patapam, patapam, patapam, patapam, patapam, patapam, patapam, patapam. Beh, approfitto per salutare il mio amico Franz Di Cioccio, eccellente musicista, batterista e anche una persona adorabile, che all'inizio di questa overture del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini chiama il pubblico a partecipare ritmicamente proprio all'inizio dell'arrangiamento. Ecco, questo è un altro esempio che ci propone oggi il maestro Bruno Santori di come si possa creare un ponte nella musica fra musicisti, certo, che vengono dall'estrazione rock, la musica classica, l'orchestra sinfonica. Indurre alla partecipazione. È quello che ci piace oggi. Classica. Senti, quanto sei moderno nella fruizione della musica? Quanto utilizzi il computer, i software per fare arrangiamenti o anche solo per ascoltare la musica? Beh sì, il computer lo uso e uso un software che adesso non sto a dire perché non facciamo pubblicità a nessuno. Un software per gli arrangiamenti. Non mi occupo poi della stesura, quindi della pubblicazione delle parti, non mi viene il termine, della copisteria. La copisteria non mi occupo di questo, mentre invece mi occupo di tutto l'apparato dell'arrangiamento, quello sì. Quindi utilizzo un software per l'arrangiamento. Comunque, quando tu devi realizzare un arrangiamento, lavori sul pianoforte, old school o no? Assolutamente, io sono un pianista, nasco così e morirò pianista, per cui per me il pianoforte è sicuramente l'elemento attraverso il quale io esprimo la mia musica, poi da lì diventa orchestrazione. Senti, perché ti sono venuti i brividi quando hai aperto il mio pianoforte qui in studio e hai visto la copertina sui tasti? Ma questo feltro sicuramente che viene messo stranamente a tanti pianoforti è ricettacolo di polvere, umidità e acari? Sì, e soprattutto i tarme. Tarme. Sì, e che sono quelli che poi ti mangiano. E quindi che devo fare? Lo devo non lo devi proprio mettere. Non lo devo. Allora sì, me lo metto io. Sembra veramente un cavallo da corsa cardinale. Che tu copri. Sì. Allora lo levo dal pianoforte. Quindi diamo un consiglio a tutti i pianisti. Ecco, mi dispiace per chi li produce, che magari sto facendo un danno. Levate dal pianoforte quella sciarpetta Bordeaux o verde. Solito questi sono i due colori. Non ha nessun motivo per esistere. Perché dicevi che non è un cavallo il pianoforte. Non è un cavallo. Non va coperto, hai capito? Non va sellato il pianoforte. No, va tenuto caldo. Senti, Francesco, io allora stiamo per chiudere la prima parte anche perché saremo puntualissimi con l'informazione di Radio 24 e voglio far ascoltare una bellissima operazione discografica contemporanea creata intorno alla voce, al mondo sonoro e compositivo di questa ragazza inglese chiamata Laura Mvula. Abbiamo più volte presentato questo talento, ma voglio farti ascoltare il suono di una bellissima orchestra sinfonica, la Metropole Orchestra di Londra, che realizza questa orchestrazione per un brano di successo di Laura Mvula intitolato Green Garden. Quindi noi facciamo una breve pausa, poi arriva l'informazione e torniamo qui dal Groovemaster Studio per questo appuntamento del Soundcheck che ospita il maestro Bruno Santori. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Pronti per la seconda parte del Soundcheck dopo l'informazione di Radio 24, nostro ospite graditissimo il maestro Bruno Santori. Grazie. Abbiamo nel frattempo ascoltato altra musica e fra pochissimo presenteremo una delle nostre preferite, mio caro Francesco, ovvero il talento assoluto di questa vocalist chiamata Shania Steele. Shania Steele, album nuovissimo intitolato Rise, con la partecipazione di grandi musicisti, pensa, due bassisti, il contrabbassista Christian McBride in alcuni brani e il bassista Marcus Miller, un ragazzino, insomma, tanto per fare due nomi, Eric Carland alla batteria e suo marito al pianoforte, che si chiama? David Cook, vedi il mio tromba come è preparato? Preparatissimo. Ma il maestro Santori è nostro ospite, quindi io approfitto sempre, perché come avrei notato, Francesco, non mi sfugge nulla, e ha fatto una battuta, l'ha buttata così il maestro: oggi la musica di oggi, soprattutto in Italia, vive di stereotipi. Che cosa volevi dire? No, volevo dire che i contenuti spesso sono estetici, nel senso che appartengono ad una sorta di forma di moda, no? Mm. che è più, voglio dire, è più presente che non i veri contenuti artistici. Ho capito, ma la responsabilità di questo è degli artisti o della morente discografia italiana? Ma è data dai tempi, è data da una società che è disattenta e quindi coglie solamente ciò che profondamente conosce. Conosce talmente poco che coglie solo le parti superficiali, gli apparati superficiali della musica. Quindi tu mi vuoi dire che se primo in classifica è un cantante con quel tipo di vocalità, poi tutto quello che viene dopo si rifà un po' a questo modello? Beh, un po' questo è così, il concept, un po' è così, no? Un po' è così. Quindi bisogna ripercorrere sempre le strade che già si conoscono, altrimenti non ci sono le possibilità per aprirsi a nuovi scenari. Però questo è lo scenario tipico del pop, cioè il pop deve vivere il presente con le cose che funzionano oggi, perché se fai le cose di ieri sei già appartieni al catalogo, se fai cose troppo avanti fai troppo di tendenza, allora, eppure quello non va bene. Forse adesso dirò una cosa della quale poi mi pentirò profondamente, ma devo dire che a volte sono anche disattento sulle nuove uscite, perché non capisco esattamente come mai debba ascoltare quello che ieri era fatto meglio. Quindi le nuove uscite, dice il maestro Santori, non sono delle novità in Italia. È tutto vecchio, è tutto già fatto. Adesso magari non è esattamente così per tutti, però devo dire che spesso i giovani propongono musica che forse neanche sanno che è già stata fatta. Questo è il punto. Io volevo fare una domanda, sì. Rapportando diciamo tutto anche all'esperienza personale, come si fa ad avvicinare i giovani magari alla musica classica, i genitori alla musica che ascoltano i giovani, quindi anche come si fa ad educare musicalmente le masse in un certo senso? Ma sicuramente, allora, ci fu un grande statista, del quale non dico il nome, che disse: se vuoi sapere come è governato un paese, ascolta la sua musica. E io credo che questa sia una grande verità, quindi è un dovere sociale, è un dovere sicuramente che dovrebbe appartenere all'istruzione di un paese. La musica non la cogli come un fiore nel campo. La musica è qualcosa che ti viene tramandato, è cultura. È cultura, è l'uomo che parla l'uomo. Quindi se non sai quello che ieri è stato detto, forse oggi ripeti, se ti va bene, quello che è stato detto ieri, e magari ti capita anche di ripeterlo in un modo meno importante rispetto a come è stato detto ieri. E allora ecco qui il modello democratico americano, direttamente dalla voce di China Steel con Sunshine Girl, qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Won't you help me and invite your lies to wake my design? See, I'm spinning, I'm living, I'm having blood vision. I wonder if you could envision it. Sometimes you just need an escape. I understand, that's why you have to fly away. Spin, I'm living, I'm having blood on blood vision. I know that's why I had to live. Il suono elettronico è tipicamente British, dei Subtract con la voce di Sampha, qui al soundcheck di Radio 24, brano splendido intitolato Temporary View, qui al soundcheck, ancora una volta un passaggio nel futuro. Oggi abbiamo il maestro Bruno Santori, che ha studiato musica classica già a 4 anni, il papà lo mise piegato sul pianoforte, bacchettate, però alla fine ha ascoltato tutto quello che gli è capitato a tiro e oggi guida anche le orchestre sinfoniche, cimentandosi con repertori diversi, dal rock progressive fino al jazz, giusto? Assolutamente. Allora, invece parliamo proprio di elettronica, no? Sì. Quanto ti ti può interessare l'elettronica. Tu hai una bellissima sala da musica, ho saputo, con tutti. Ho avuto. Hai avuto. Sì. Un tempo mi raccontasti che avevi una sala da musica incredibile con tutti gli strumenti per far suonare un'orchestra sinfonica. Ma a casa, comunque, attualmente ho ancora qualcosa tipo 80 diverse tastiere elettroniche che mi appartenevano già a quell'epoca, compreso il Memory Moog. Beh, perché tu prima di arrivare alla direzione di un grande organico hai suonato. Io ho suonato nelle dance, band. No? Nelle band. Sì, ma no? Ho suonato nelle band. Io fui il tastierista dei Daniel Santa Cruz Ensemble. Ah, per bacco! Di Soleado, certo. Soleado, hai capito? Certamente. Preistoria, guarda. Preistoria. Lui non sa neanche di cosa stiamo parlando. Però parliamo di un brano che ha venduto nel mondo 30 milioni di copie. Ecco, becca. Però noi non lo conosciamo, quelli della mia generazione. Giustamente, giustamente. Però se te lo dovessi suonare, non te lo canto, dovessi suonare te lo conosceresti. Sono certo. Poi dopo te lo suono. Oh, mi dirai è vero, non lo conosco. Senti, maestro, quindi insomma continui a tenerti aggiornato sulle sonorità, tastiere, loop machine, campionatori e via dicendo. Beh, Virtual Instrument, ovviamente, certamente, devo farlo, è questo, e mi piace anche farlo. Però il tuo approccio è da musicista, perché sì. Invece, per esempio, qui in Subtract sono in due, uno è un DJ. È un po' musicista, suona la batteria, un po' il basso, l'altro è un bravissimo vocalist. Portai e quindi una volta... utilizzano il computer proprio per supplire magari anche a delle carenze tecniche musicali. Ma una volta con i pomeriggi musicali, Orchestra Sinfonica di Milano, portai Coccoluto e Saturnino al basso. E facemmo un concerto dove c'era anche musica classica, sinfonico, e in mezzo c'era Coccoluto con i piatti, e fu una cosa molto divertente, devo dire. Quindi anche il DJ, io il DJ lo concepisco come un musicista, la musica è un'espressione dei suoni che non necessariamente deve essere fatta attraverso il pentagramma. Quindi per me musicista vuol dire colui che ha qualcosa da esprimere attraverso comunque la musica e il suono. Quindi per me musica è tutto quello che fa suono. Allora, c'è una band che noi conosciamo bene e apprezziamo, una band australiana. Non so se hai mai sentito parlare di Hiatus Keyote. Purtroppo no. Band guidata dalla vocalist Napalm, che è un bel tipino. Ecco, questi ragazzi hanno in qualche modo... spinto l'acceleratore sulla creatività, fanno musica senza confini, potremmo definirla, Francesco? Eh sì, è un po' quello, la mission del maestro, però allargata magari con un sound un po' più contemporaneo, R&B, più soul forse. Con un pizzico anche di Frank Zappa nella follia e nella visione generale della loro musica. Il brano che ti faccio ascoltare è estratto dall'ultimo EP, quindi hanno pubblicato tre brani, neanche quattro, proprio tre brani per la Sony Music, e questo EP si intitola By Fire, come il brano che ti faccio ascoltare, che inizia in maniera sorprendente. Infatti allacciatevi le cinture di sicurezza, perché sembra qualcosa di veramente duro e rock, e poi c'è una trasformazione nel groove. E la cosa che mi piace di questa band è che l'arrangiamento nella stesura completa della composizione cambia sempre, non si ripete quasi mai. Soundcheck, il suono della musica. Il maestro Bruno Santori, ospite del Soundcheck, al quale voglio fare una domanda. Secondo te quanto potrà durare la mia rubrica suonando questo ampio spettro di possibilità sonore? Ma sei ancora in onda? No, perché forse mi hanno tagliato? No, non lo so. No, devo dire che noi riceviamo al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Voglio ringraziare tutti gli appassionati di musica, email molto carine nei nostri confronti, proprio perché ormai hanno scelto il nostro programma quasi come se fosse un miraggio nel deserto. Però effettivamente, ascoltando la radiofonia nazionale, continuo a verificare che i brani e la musica che viene proposta è sempre la stessa. Però la musica è bella perché varia, o no? Questo è il mio concept principale. Beh, non c'è dubbio. Ma devo dire che avere te in Italia è veramente un'opportunità. Madonna, che devo fare? Lo devo abbracciare a questo. Questo è quello adesso. Che penso, me lo penso da sempre. E quindi no, sei troppo carino, grazie. È una grande opportunità che non va perduta. E quindi mi auguro che l'editore di questo strumento di conoscenza musicale continui a sostenerti, perché l'Italia ha bisogno di rinascere e ricreare un proprio stato di coscienza musicale. Senti, però noi in Italia, lo possiamo dire, nel reparto musica classica abbiamo dei meravigliosi musicisti, degli interpreti strepitosi. Certamente. Che fanno concerti in tutto il mondo. Nel jazz la stessa cosa, ormai i musicisti di jazz italiani, non faccio i nomi perché poi ne parliamo sempre, soprattutto certo. Nella seconda parte del soundcheck della domenica, pure hanno rivoluzionato un po' l'ambiente in Italia e si fanno notare all'estero. Invece nel pop italiano, tu che lo frequenti, che cosa sta succedendo musicalmente? Cioè, quali possono essere le novità, gli sbocchi, l'evoluzione? Ma ancora una volta il pop nel mondo viene vissuto come il bel canto, e quindi pensiamo subito a Bocelli come massima espressione contemporanea del bel canto italiano nel mondo. Lo è stato Pavarotti, che voglio dire era un cantante lirico, ma in qualche modo lo è stato anche nella pop. Caruso stesso, Tito Schipa. Noi siamo riconosciuti come questo. La musica... Quindi dici, la musica pop di oggi, la musica commerciale italiana, sì, risente di questo tipo di approccio, cioè una vocalità che viene dal classico, sì, molto potente, muscolare. Noi alla Camerata dei Bardi di Firenze facciamo nascere bel canto e quindi ancora oggi nel mondo ci riconoscono questo. È un po' più difficile per la musica pop, perché siamo sempre stati esterofili e abbiamo importato noi la musica che gli altri fanno, molto spesso anche, devo dire, meglio di noi. Quindi è difficile poi esportarla quella. Invece quella che riconoscono essere italiana proprio nel DNA, che è questa di cui stiamo parlando, questa sicuramente fa il giro del mondo e diventa importante per l'Italia. Infatti noi, e domani ne parleremo, perché nella puntata di domani alle 15.30 parliamo dei Grammy Award. I Grammy Award, quindi il premio, la consacrazione internazionale, discograficamente parlando, l'abbiamo ottenuta noi italiani con Domenico Modugno alla fine degli anni 50 per Volare, Laura Pausini per delle produzioni poi italiane ma rese in lingua latina, quindi in spagnolo, e poi tantissimi Grammy Award per la musica classica. Sì. Allora, domanda per te. Allora, stiamo parlando di grandi musicisti italiani. Aspetta, scusami Francesco, che io noto, ma sai, io ho il tempo nelle mie mani. Direi di fare una cosa, di ascoltare prima questo artista che ti faccio ascoltare, inglese, che ultimamente si è fatto notare in Inghilterra per questa produzione che è arrivata un po' tardi nella sua carriera, no? Sì, ha fatto il suo primo disco a 37 anni, quindi diciamo già abbastanza maturo come musicista. Questo possiamo sperare anche noi a questo. Assolutamente sì, come polistrumentista è meraviglioso, si chiama Gerard Lawson. Allora, ascoltiamo subito il primo brano dei due che ho scelto per voi, si intitola He's There. Sentite che cantante formidabile questo ragazzo. Soundcheck, il suono della musica. Tra i vincitori della recente edizione dei Grammy Award, il signor Beck Hansen con l'album Morning Face si è aggiudicato miglior album dell'anno, miglior album rock, ma anche il Best Engineered Album Non Classical, quindi significa la migliore realizzazione a ripresa audio, il lavoro fatto in studio per Beck Hansen, che qui abbiamo apprezzato ancora una volta al soundcheck con Heart is a Drum, tanto per ricordarvi che nella la puntata di domani, quella che partirà sempre qui su Radio 24 dalle 15:30, parleremo di questa edizione dei Grammy Award, ascoltando tutta la musica che noi, ancora prima dei signori che hanno mandato in nomination gli artisti, abbiamo suonato per voi qui su Radio 24. Perché, mio caro Bruno, quando tu fai il musicista e sei appassionato, hai questa forma compulsiva nei confronti della curiosità e della scoperta musicale. Non so se succede anche a te, ma io non posso farne a meno di andare a ricercare. Io, quando mi incontro con i ragazzi, dico sempre loro: per fare il musicista oggi rispetto a ieri, forse si ha bisogno di più coraggio, e il coraggio è quello del non successo. E oltretutto, per spiegarmi meglio, dico sempre: prendete l'occasione dei dischi che non si vendono per fare buona musica. Ma questo è quello che dico anch'io e che penso ancora oggi. Quando noi abbiamo iniziato, noi apparteniamo proprio alla stessa generazione, no? Sì. Tu sei, di che anno sei? Del 57. Del 57, sei un pelo più grande di me. Sempre, però, capita sempre. Non è vero, però apparteniamo, insomma, a quella generazione con quella mentalità. Quando tu hai iniziato a studiare musica, a fare il musicista, pensavi di studiare musica per avere successo o solo per il gusto incredibile di avere l'approccio con la musica e col pianoforte? Gigi, credimi, ti dico veramente la sincera verità, mai ho pensato al successo nella mia vita, non mi è mai interessato. Se qualche volta mi è capitato di partecipare a qualcosa che avesse successo, è stato veramente casuale. Non ho mai cercato la strada del successo, soprattutto la strada del successo facile. E vedi, Francesco, non si è incattivito il maestro, no? È rimasto puro. Beh, non crediate, insomma. dipende. Cioè, lui ha la bacchetta, quella per dirigere, ma anche il bastone. Attenzione, perché il maestro è fatto così. Bruno, grazie per essere stato... Il bastone mi serve per camminare. No, non è vero che stai in formissimo. Allora, Bruno, veramente sono stato felicissimo di vederti, grazie non per la tua visita io. Qui nel nostro grazie studio. Grazie a te, grazie a Francesco, grazie a tutti i tuoi splendidi ascoltatori e grazie a Radio 24, che io amo. Ecco, bene, siamo contenti, è la nostra radio preferita. Anche e la ringraziamo sempre proprio per darci la possibilità di poter esprimere in libertà la nostra il una, nostro pensiero. Una delle no, mie radio musica. Preferite, una, poi ce n'è un'altra che non dico perché siamo sola. Però, no, non la dire, dai, se non ci offendiamo, vai. Francesco Tromba, grazie, hai fatto un bel lavoro, ti sei divertito con il maestro Santori? Tantissimo, fonte di ispirazione ogni sua parola. Bene, preparati perché domani parliamo dei Grammy Award, quindi ci risentiamo domani sempre su questi schermi a partire dalle 15:30, poi seconda parte, quella più jazz, dalle 19:15, e chiudiamo con un'altra orchestra, ma questa non è un'orchestra che utilizza strumenti, è un'orchestra che utilizza solo ed esclusivamente voci, ovvero quella organizzata da Bobby McFerrin, che noi apprezziamo e conosciamo, si chiama La Voice Extra, il brano intitolato Sei la Dio. Io fui alla Scala quando lui diresse cantando l'Orchestra Sinfonica della Scala. Ecco, quindi sai che è un musicista completo, come tutti i vocalist devono essere oggi, non si può scherzare. Bobby McFerrin chiude il soundcheck. A tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telesforo, grazie a Bruno Santori e a Francesco Tromba. Say that you wait. Time for taking words away. The melody will tell the story as we go on.